Vuol dire che quello che ho sempre urlato in aula e sottoscritto nelle mie memorie in quest'aula, che io non ho rubato, ho lavorato ma non ho rubato. E qualcuno ora forse si ricorderà qualcosa che fino adesso non si è mai ricordato. Cipriani ha lavorato per un committente, committenza che diceva prima che i soldi gli erano stati sottratti per 8 anni. Che cosa sono state quelle operazioni? Sono state delle operazioni di business per chi me l'ha commissionate, sulle quali ha fatto il proprio operato. Io ho fatto la formazione della notizia e qualcuno, come io ho sempre detto, su ogni operazione c'era dietro un'operazione aziendale, qualche volta personale.